ad alta voce. Manuela Mandracchia legge La parete di Marlene Haushofer. Traduzione di Ingrid Arbeck. L'agosto portò il bel tempo stabile. Decisi che l'anno successivo avrei atteso a tagliare il fieno, cosa che in seguito si dimostrò una decisione sensata. Durante una delle mie battute di caccia, ricordai di aver scoperto una macchia di lamponi. Si trovava a un'ora buona di marcia dallo chalet. Tuttavia, a quel tempo la prospettiva di cibo dolce mi avrebbe fatto camminare anche per 2 ore. Avendo sempre sentito dire che le macchie di lamponi erano dei veri e propri nidi di vipere, lasciai a casa l'ince. Obbedii solo a malincuore e strisciò verso casa sconsolato. Sopra le scarpe infilai dei vecchi gambali di cuoio appartenuti al guardacaccia, i quali, ricoprendomi le ginocchia, mi intralciavano nel camminare. Naturalmente, tra i cespugli, non vidi una sola vipera. Oggi ho smesso di preoccuparmene. Quassù ci devono essere pochi serpenti, oppure mi evitano. Probabilmente anche loro mi considerano pericolosa. I lamponi erano maturati al punto giusto. Ne raccolsi un grande secchio e me lo portai a casa. Non avendo zucchero e non potendoli conservare, fui costretta a mangiarli subito. Tornavo alla macchia di lamponi a giorni alterni. Fu una pura beatitudine, affogavo nella dolcezza. Il sole covava sopra i frutti maturi e un profumo selvatico di luce solare e bacche fermentate mi avviluppava, stordendomi. Mi dispiaceva non avere l'ince con me. Ogni tanto, quando mi raddrizzavo da sopra un cespuglio per distendere la schiena, mi assaliva la consapevolezza d'essere sola. Non era paura, solo oppressione. Immersa nei cespugli di lamponi, completamente sola tra i cespi spinosi, le api, le vespe e le mosche, mi resi conto di cosa l'ince significasse per me. A quel tempo non potevo immaginare la vita senza di lui. Eppure non lo portai mai con me alla macchia dei lamponi. Il pensiero delle vipere continuava a ossessionarmi. Non potevo esporlo a un simile pericolo solo per sentirmi a mio agio accanto a lui. Solo molto più tardi, sull'Alpe, vidi veramente una vipera. Prendeva il sole su un macereto. Da quel giorno non ho più avuto paura di un serpente. La vipera era bellissima. E a vederla così, tutta abbandonata al calore giallo del sole, ebbi la certezza che non aveva nessuna intenzione di mordermi. I suoi pensieri erano lontanissimi da me. Desiderava solo starsene in pace sulle pietre bianche, in un bagno di calore e di luce solare. Tuttavia, ero contenta di aver lasciato a casa l'ince. Non credo però che si sarebbe avvicinato al serpente. Non l'ho mai visto attaccare una lucertola o una biscia. Qualche volta scavava a caccia di un topo, ma nel terreno pietroso gli riusciva raramente di acchiapparne uno. La raccolta di lamponi durò 10 giorni. Sedevo pigramente sulla panca, infilando in bocca un frutto dopo l'altro. Mi stupiva che i miei tessuti non si fossero ancora trasformati in polpa di lamponi. Poi, di colpo, fui satura. Non fu nausea, ero solo satura di dolcezza e di quel profumo. Spremetti gli ultimi 2 sacchi servendomi di un panno, raccolsi il succo in 2 bottiglie e le misi nella vasca della fontana, dove l'acqua restava gelida anche d'estate. Per quanto i frutti fossero dolci, il succo aveva un sapore acidulo e rinfrescante e rimpiansi di non poterlo conservare. Non ho mai provato. Probabilmente in mancanza di zucchero il succo avrebbe iniziato a fermentare anche nella fontana. Non possedendo vasi a chiusura ermetica, non ero in grado di cuocere a vapore una conserva sterile. La mia fame di cibo dolce s'era placata, almeno per il momento, e nel corso dei mesi seguenti si mantenne entro limiti sopportabili. Oggi non ne soffro proprio più. Si può vivere benissimo senza zucchero, e col tempo il corpo ne perde il desiderio morboso. L'ultima volta che ero andata a cogliere i lamponi, il sole mi aveva infuocato la schiena più del solito. Il cielo era senza una nuvola, un grigiore quasi plumbeo, e l'aria torrida stagnava simile a una densa poltiglia sopra i cespugli. Non aveva piovuto da 15 giorni e dovevo aspettarmi un temporale. Fino a quel momento ero stata risparmiata dai nubifragi violenti. Malgrado ciò li temevo un poco. Sapevo con quanta furia potessero scatenarsi in montagna. La mia vita era già abbastanza difficile e faticosa anche senza cataclismi. Verso le 4 del pomeriggio, una barriera di nubi nere si levò improvvisamente dietro gli abeti. Sebbene non avessi ancora riempito del tutto il mio secchio, decisi di incamminarmi. Le mosche e le vespe non mi avevano dato tregua, ronzandomi attorno alla testa con un brusio astioso e irritato. In mezzo ai cespugli c'erano anche alcuni calabroni, fin lì sempre molto discreti. Quel giorno pure loro s'erano fatti invadenti e fendevano l'aria simili a spole impazzite. Avevano l'aspetto di insetti fatti di oro puro. Per quanto belli fossero, ritenni comunque più saggio cedere loro i cespugli di lamponi. Le vespe mi inseguirono ancora per un pezzo e rinunciarono ai miei frutti solo nel bosco. Sotto i faggi e gli abeti, la calura stagnava come imprigionata in una grande campana verde. La barriera di nuvole avanzava minacciosa e il sole era nascosto dietro a dei veli. Feci l'ultimo tratto di strada quasi correndo. Avevo solo un pensiero: tornare, condurre Bella nella stalla e poi barricarmi in casa. L'ince mi accolse guaiolando, elevando al cielo uno sguardo inquieto e pieno di apprensione. Avvertiva l'avvicinarsi del temporale. Bella si accostò subito trotterellando e dopo aver bevuto alla fontana si lasciò docilmente condurre nella stalla. Per tutto il giorno era stata importunata da mosche e tafani e ora pareva contenta di tornare al suo rifugio. La munsi, accostai gli scuri e diedi un giro di chiave alla porta. Il catenaccio, in caso di tempesta, non mi pareva abbastanza sicuro. Poi rientrai in casa. Diedi da mangiare all'ince e ai gatti, spremetti i lamponi e versai il succo nelle bottiglie, senza però depositarle nella fontana, per timore che si rompessero durante il temporale. Intanto si erano fatte più o meno le 6. Il cielo si era completamente oscurato e sullo sfondo plumbeo mostrava un orribile alone sulfureo. Ciò poteva significare sia grandine che tempesta e aveva un aspetto inquietante. Sebbene il sole si intravedesse ormai solo come luce diffusa al di sopra della foresta, la spaventosa campana d'aria torrida continuava a pesare sulla radura. Respiravo a fatica. Non si avvertiva il minimo alito di vento. Bevi del latte freddo e, senza alcun appetito, mangiai un pezzetto di focaccia di riso. Poi non mi restò altro da fare. Salii dunque al piano superiore per controllare gli scuri delle camere. Poi chiusi anche la finestra della camera da letto. Quella della cucina era ancora aperta e così la porta. Eppure non c'era corrente d'aria. La vecchia gatta, dopo aver mangiato, se n'era andata nel bosco. Perla sedeva sul davanzale, gli occhi fissi sul cielo cupo e giallastro. Stava con le orecchie appiattite, le scapole sollevate verso il collo e tutto il suo contegno esprimeva disagio e paura. L'ince si era disteso attraverso la soglia di casa, la lingua penzoloni, ansimando forte. Accarezzai Perla e al contatto con la mia mano il suo pelo bianco crepitò, mandando scintille. Anche i miei capelli crepitavano se vi passavo la mano. E lungo le braccia e le gambe sentivo come un formicolio di insetti. Decisi di restare calma e andai a sedere nella panca davanti a casa. La povera Bella mi faceva pena nella sua stalla buia e soffocante, ma non potevo aiutarla. Doveva avere pazienza. Il temporale poteva scatenarsi da un momento all'altro. Per il momento, comunque, era tutto tranquillo. Nel bosco il silenzio non è mai completo. È muto solo in apparenza. In verità risuona di un'infinità di suoni diversi. Un picchio batte in lontananza, un uccello stride, il vento fa frusciare l'erba del sottobosco, un ramo sbatte contro un tronco e piccoli animali si fanno strada tra un crepitare di frasche. Tutto è vivo. Tutto è al lavoro. Eppure quella sera regnava un silenzio quasi totale. L'ammutolire degli svariati rumori abituali mi impaurì. Perfino il mormorio della fontana aveva un suono sommesso e ovattato, quasi anche l'acqua scorresse pigramente di malavoglia. L'ince si alzò, saltò faticosamente sulla panca accanto a me e mi diede un lieve buffetto col muso. Ero troppo spossata per accarezzarlo, ma gli parlai a bassa voce, come intimorita da quel terrificante silenzio. Non capivo cosa impedisse al temporale di scoppiare. Faceva buio come a tarda sera e mi venne fatto di pensare a quanto fossero innocui, quasi piacevoli, i temporali in città. Come era stato rassicurante osservarli attraverso lo spessore dei vetri. Il più delle volte li avevo appena notati. Di colpo si fece buio pesto. Mi alzai ed entrai in casa con l'ince. Non sapendo bene che fare, mi sentivo un po' sconsolata, così accesi una candela. Temevo di accendere il lume, forse per via dell'antica superstizione che la luce attiri il fulmine. Chiusi la porta a chiave, lasciando la finestra ancora aperta, e poi andai a sedere al tavolo. La candela ardeva diritta e immobile, senza un alito di vento a turbare la fiammella. L'ince si avviò verso la stufa, si arrestò titubante e poi si voltò per tornare a sedersi accanto a me sulla panca. Non voleva abbandonarmi nel pericolo, sebbene tutto lo spingesse a rifugiarsi dentro la sua tana sicura nella nicchia della stufa. Anch'io avrei preferito rifugiarmi in una tana sicura, ma per me non c'era tana. Sentii il sudore rigarmi il volto e raccogliersi intorno agli angoli della bocca. Avevo la camicia incollata alla pelle. Poi il primo tuono squarciò il silenzio. Perla balzò dal davanzale inorridita e fuggì nella nicchia della stufa. Chiusi la finestra e gli scuri e il caldo si fece opprimente. Dalle nuvole si levò un boato frastornante. Attraverso le fessure degli scuri vidi saettare il bagliore giallo dei lampi. Dall'oscurità emerse la vecchia gatta. Si arrestò in mezzo alla stanza col pelo ritto e con un lamento andò a rintanarsi sotto il mio letto, dove alla tenue luce della candela vidi il luccichio giallo e rosso delle sue pupille. Tentai di tranquillizzare gli animali, ma la mia voce venne inghiottita dal tuono successivo. Quel cupo, diffuso mugghiare sopra le nostre teste, durò circa 10 minuti, ma a me sembrò un'eternità. Le orecchie mi dolevano fin dentro la testa e incominciarono a farmi male perfino i denti. Ho sempre sopportato malissimo il rumore, che percepisco come un dolore fisico. Poi, all'improvviso, ci fu un minuto di silenzio assoluto. E quel silenzio fu più angoscioso del frastuono. Era come se sopra di noi un gigante a gambe divaricate stesse brandendo il suo martello infuocato per colpire con furia la nostra casa di bambola. L'ince guaiva stringendosi a me. Quando il fulmine successivo scese con un bagliore giallo e il tuono fece tremare la casa, fu quasi una liberazione. Quello che poi seguì fu un violento temporale, ma il peggio l'avevamo passato. Sembrò accorgersene pure l'ince, perché saltò giù dalla panca per ritararsi vicino a Perla nella nicchia della stufa. Il pelo bianco e quello rosso bruno aderirono strettamente l'uno all'altro e io rimasi sola al tavolo. Ora s'era levato anche un vento impetuoso che spazzava sibilando sopra la casa. La candela prese a vacillare e subito l'aria mi parve meno soffocante. La vista della candela guizzante mi fece pensare all'aria pura e fresca. A quel punto mi misi a contare i secondi che separavano i fulmini dai tuoni. In base a tale calcolo, il temporale indugiava ancora sopra la conca. Una volta il guardacaccia mi aveva raccontato di un temporale rimasto imprigionato per 3 giorni nella conca. A suo tempo non gli avevo dato molto credito. Ora cambiai idea. Non potevo fare altro che aspettare. Avevo trascorso tutta la giornata china sui cespugli di lamponi e la stanchezza incominciava a tormentarmi. Non osavo stendermi sul letto, d'altra parte avvertivo la spossatezza crescere, al punto da dissolvere la fiammella della candela in un fiammeggiante anello liquefatto. Ancora non pioveva. Avrei dovuto preoccuparmi, ma con mia grande sorpresa stavo diventando completamente indifferente. I miei pensieri si confusero nel torpore della sonnolenza. Ero piena di commiserazione per me stessa, estremamente stanca e incapace di prender sonno e astiosa, esasperata contro qualcuno, ma quando mi riscossi mi ero completamente scordata contro chi fossi tanto adirata. Mi vennero in mente la povera Bella e il campo delle patate. Poi ricordai di aver lasciato aperta la finestra del mio appartamento in città. Mi costò fatica rendermi conto dell'insensatezza di tale pensiero. Dissi ad alta voce: «Dimentica le maledette finestre!» E mi svegliai. Il fragore di un tuono fece tintinnare le casseruole sul fornello. Il fulmine doveva essersi abbattuto molto vicino. Mi tornarono in mente le notti in cantina durante i bombardamenti e per l'antica paura incominciai a battere i denti. Anche l'aria era pesante e viziata come allora in cantina. Stavo per spalancare la porta quando il vento avvolse la casa in un turbine furioso, facendo sbatacchiare le scandole del tetto. Non osai sdraiarmi sul letto e tantomeno volevo tornare a sedere al tavolo per timore di scivolare nuovamente in quello sgradevole stato di dormiveglia. E così presi a camminare avanti e indietro nella stanza, le mani incrociate dietro, barcollando dal sonno. L'ince sporse il muso dalla nicchia della stufa e mi gettò uno sguardo preoccupato. A fatica gli rivolse qualche parola rassicurante e lui si ritirò nella sua tana. Il temporale mi sembrava durare ormai da molte ore, invece erano solo le 9:30. Infine gli intervalli tra tuoni e fulmini si allungarono e io tirai un sospiro di sollievo. Ma ancora non pioveva e il sibilo del vento non accennava a diminuire. Ed ecco, improvvisamente, come da una distanza infinita, il suono delle campane. Era assolutamente inspiegabile. Ma nell'ululare del vento udii distintamente il suono limpido di una campana lontana. Se non si trattava dell'allucinazione della mia mente, doveva provenire dalle campane del paese. Non esistendo più alcun essere vivente, era il vento a suonare le campane. Era un suono sinistro, qualcosa che in realtà non potevo sentire e che invece sentivo. In seguito ho vissuto molti altri temporali nel bosco, ma la campana non l'ho più sentita. Forse la bufera ha strappato la fune, a meno che quel suono non fosse un'illusione delle mie orecchie assordate dal frastuono. Infine il vento si placò e con lui quel fantomatico scampanio. Poi seguì un suono, come se qualcuno avesse strappato un enorme pezzo di tela, e l'acqua scrosciò dal cielo. Andai verso la porta e la spalancai. La pioggia mi sferzò la faccia, lavando via la sonnolenza e la paura. Finalmente riuscivo a respirare. L'aria aveva un sapore puro e fresco e produceva una sensazione frizzante nei polmoni. L'ince uscì dalla sua tana per annusare incuriosito quell'aria. Poi abbaiò gioiosamente e, scuotendo le lunghe orecchie con fare composto, tornò dalla sua candida amica, che tutta raggomitolata s'era pacificamente assopita. Gettai il cappotto sulle spalle e, facendomi luce con la pila, attraversai di corsa l'oscurità bagnata fino alla stalla. Bella aveva strappato la catena e stava con la testa rivolta alla porta. Si avvicinò, premendosi contro di me con dei muggiti di lamento. Le diedi qualche colpetto affettuoso sui fianchi che le si alzavano e abbassavano dalla paura, fin quando si lasciò docilmente voltare e legare al montante del letto. Poi spalancai la finestra. Da quel lato la pioggia non poteva entrare, gli abeti proteggevano la parte posteriore del tetto. Dopo gli spaventi di quella notte, Bella si meritava l'aria e la frescura. Ritornai allo chalet e finalmente, dopo tanti affanni, mi parve di avere anch'io il diritto di stendermi in pace. La gatta sgusciò da sotto il letto e si avvicinò, e nel volgere di pochi istanti piombai in un sonno profondo. Sognai un temporale e mi destai per il tuono. Non si trattava di un sogno. La vecchia tempesta era tornata, o una nuova stava per abbattersi sulla vallata. Pioveva a dirotto e mi alzai per chiudere la finestra e asciugare una pozza d'acqua sul pavimento. Nella camera faceva un fresco gradevole. Tornai a stendermi e ripresi subito sonno. I tuoni continuavano a svegliarmi e io continuavo a riaddormentarmi. Fu un costante avvicendarsi di temporali reali e sognati, tanto che verso l'alba avevo raggiunto uno stato di completa indifferenza verso qualsiasi temporale. Mi tirai la coperta fin sopra la testa e finalmente mi addormentai profondamente di un sonno indisturbato. Fui destata da un cupo fragore, un suono mai udito prima, che mi svegliò di colpo. Erano le 8 di mattina. Avevo dormito più a lungo del solito. Prima feci uscire all'aperto lo spazientito lince, poi andai a vedere cosa potesse mai provocare tutto quel fracasso, quel suono raschiante simile a una mola. Davanti allo chalet non si vedeva nulla. La tempesta aveva strapazzato i cespugli e spazzato alcuni rami, e grandi pozze d'acqua allagavano il sentiero che portava alla stalla. Mi vestii, presi il secchio per la mungitura e andai da Bella. Nella stalla tutto era al proprio posto. Il fragore proveniva dal ruscello. Scesi per un pezzo lungo il pendio e vidi dei flutti gialli trascinare nel loro turbine alberi sradicati, zolle d'erba e massi. Pensai immediatamente alla gola. L'acqua doveva ristagnare contro la parete, sommergendo il prato vicino al ruscello. Decisi di andare a vedere appena possibile. Ma prima, come tutti i giorni, dovevo sbrigare il lavoro più urgente. Condussi Bella fuori dalla stalla. Faceva fresco e piovigginava appena. I tafani e le mosche l'avrebbero lasciata in pace. Sul prato vicino al bosco c'era una grossa quercia già segnata da un fulmine che doveva averla colpita in passato. La folgore aveva infine centrato la sua vittima. Questa volta non s'era accontentata di marcarla. La vecchia quercia era tutta squarciata. L'albero mi fece pena. È raro trovare una quercia da queste parti. Mentre stavo tornando verso casa, udii un brontolio distante. Evidentemente il temporale covava ancora sopra le montagne, o forse vagava da una conca all'altra, sempre in cerchio, proprio come l'aveva descritto il guardacaccia. Dopo colazione mi avviai verso la gola con l'ince. Laggiù la strada non poteva essere allagata perché si trovava troppo in alto, ma l'acqua, defluendo dall'altra parte, aveva trascinato con sé alberi, arbusti, pietrisco e zolle di terra. Il mio amabile ruscello verde s'era trasformato in un mostro limaccioso. Quasi non osai guardarlo. Un passo falso sulla pietra sdrucciolevole e tutte le mie pene si sarebbero concluse nell'acqua gelata. Come avevo previsto, lungo la parete l'acqua non riusciva a defluire abbastanza rapidamente. Si era formato un piccolo lago, sul cui fondo le erbe del prato fluttuavano lentamente. Contro la parete gli alberi, i cespugli e le pietre si erano accumulati in una piramide. La parete non era quindi solo invisibile, ma anche infrangibile, data l'incredibile furia con cui i tronchi e le pietre l'avevano colpita. Il lago, tuttavia, era più piccolo di quanto avessi temuto e in qualche giorno sarebbe certamente defluito del tutto. L'ammasso provocato dall'alluvione mi impediva di vedere quale fosse la situazione dall'altra parte. Probabilmente, da quel lato, la fiumana gialla rotolava a valle meno impetuosamente. I fiumi si sarebbero ingrossati trascinandosi dietro case e ponti, sfondando porte e finestre, per strappare ai loro letti e alle loro sedie quegli oggetti pietrificati e senza vita che un tempo erano stati esseri umani. E sopra i vasti banchi di sabbia, uomini di pietra e animali di pietra si sarebbero arenati per seccare il sole, e tra loro ciottoli e frantumi di roccia che non erano stati mai altro che pietra. Nel vedere tutto ciò distintamente davanti a me, fui presa da una leggera nausea. L'ince mi diede un buffetto col muso e mi spinse da parte. Forse non gli piaceva l'acqua alta, oppure mi sentiva molto lontana e voleva farsi notare. Come sempre in tali circostanze, finii per assecondarlo. Sapeva molto meglio di me cosa mi convenisse. Per tutto il cammino di ritorno rimase stretto al mio fianco, spingendomi contro la parete rocciosa, lontano da quel mostro fragoroso e rombante che avrebbe potuto inghiottirmi. Alla fine la sua premura mi fece sorridere. Mi saltò addosso, premendomi le zampe fradice sul petto e abbaiando forte con allegria, quasi volesse provocarmi. L'ince avrebbe meritato un padrone allegro e robusto. Spesso io non ero all'altezza della sua gioia di vivere, e per non deluderlo mi vedevo costretta a fingermi allegra. Eppure, sebbene non fosse in grado di procurargli una vita molto divertente, doveva perlomeno sentire quanto gli fossi affezionata e quanto avessi bisogno di lui. L'ince del resto era d'animo decisamente gentile, bisognoso d'affetto e devoto agli esseri umani. Il guardacaccia era evidentemente una persona buona, mai ho riscontrato traccia di scaltrezza o malignità nel cane. Quando raggiungemmo lo chalet eravamo entrambi fradici. Accesi il fuoco e appesi gli indumenti alla stanga fissata a tale scopo sopra la cucina economica. Le scarpe le imbottii col manuale della scuola guida ridotto in piccole palline. Poi le deposi sopra due ciocchi ad asciugare. Nel frattempo il brontolio tra le nubi continuava, venendo ora da destra, ora da sinistra. Aveva un suono iracondo e un po' deluso e si protrasse per tutta la giornata. Tutto sommato, il temporale mi aveva provocato pochi danni. Le mie trote dovevano essere almeno in parte perite e questa era la perdita più grave causatami dalla tempesta. Col tempo, tuttavia, anche loro si sarebbero riavute tornando a riprodursi. Sul tetto si erano staccate alcune scandole e questo danno lo dovevo riparare il più presto possibile. La cosa mi spaventava un poco perché soffro di vertigini. Comunque, vertigini o no, Dovevo assolutamente montare sul tetto e aggiustarlo. Sullo spiazzo vuoto davanti alla casa avevo accatastato una quantità di legna con l'intenzione di spaccarla in piccoli ciocchi. La raccolta dei lamponi e la mia ingordigia mi avevano fatto interrompere quel lavoro importante. Adesso la legna era fradicia e mi toccava attendere che seccasse al sole. La pioggia aveva dilavato la segatura in piccoli rivoli fin sulla strada, 3 sottili strisce arancioni che si perdevano lentamente nel pietresco. Anche la strada che attraversava la gola era stata erosa, comunque meno di quanto avessi temuto. Alla prima occasione dovevo accomodarla. Tante erano le cose che avrei dovuto fare: spaccare la legna, raccogliere le patate, vangare il campo, trascinare sul fieno dalla gola, accomodare la strada e riparare il tetto. Appena intravedevo la speranza di potermi riposare un poco, si presentava già un nuovo lavoro. Manuela Mandracchia ha letto La parete di Marlene Haushofer, a cura di Fabiana Carobolante con Chiara Valerio, Ornella Bellucci e Filippo Travaglio. Sonorizzazione di Jacopo De Bertoldi. Tutte le puntate su RaiPlay Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.